Roberta Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ci vuole libertà di azione assoluta per polizia e carabinieri. E se devo prendere per il collo un delinquente, lo prendo per il collo. E se si sbuccia il ginocchio, si rompe una gamba, cazzi suoi. Evita di fare il delinquente, così non si sbuccia il ginocchio e non si rompe la gamba. Nel suo consueto modo molto chiaro, diciamo, senza equivoci, il segretario della Lega Salvini ha spiegato qual è il suo parere rispetto al reato di tortura, oggi lo ha detto in una manifestazione del sindacato della polizia SAP, e quindi voi potete immediatamente cominciare a riflettere su questo concetto, perché Salvini è contro il reato di tortura, perché dice, insomma, la polizia deve fare il proprio lavoro, se poi qualcuno si fa male, cazzi suoi. Potete scriverlo come al solito attraverso i due canali vostri privilegiati per intervenire qui a Effetto Notte, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte o il numero degli sms al 349-238-6666. Ci sono molti argomenti oggi, non soltanto parleremo di questo, ma della vicenda De Magistris, che al momento non è che sia risolta, ma c'è stata una prima tappa. Il Tribunale di Napoli di nuovo ha rifermato la legge Severino e quindi De Magistris resta sindaco di Napoli. Capiremo poi se la stessa cosa vale anche per il governatore della regione Campania De Luca. Poi è passata la scuola al Senato, la fiducia sul DDL scuola, bisogna vedere poi alla Camera, però intanto ci sono i primi commenti, le proteste di piazza, sentiremo un esponente del Movimento 5 Stelle. C'è poi una buona notizia che riguarda una bambina che era stata rapita 5 anni fa dal padre egiziano separato da mamma italiana, è tornata in Italia, sicuramente non sarà facile per lei il percorso, un po' di riabilitazione, insomma, qui in Italia, però ne parleremo con la responsabile della Farnesina che se ne è occupata, e sappiate che i casi sono veramente tanti in Italia di genitori che rapiscono i figli e li portano altrove. Ma intanto le altre notizie. La riforma della scuola passa la fiducia in Senato, 159 sì, proteste in piazza, ora il provvedimento passa alla Camera. La crisi greca nulla di fatto all'Eurogruppo, al Consiglio europeo si parla di immigrazione. Napoli, De Magistris resta in carica, il Tribunale accoglie il ricorso contro la Severino. Salvini contro il reato di tortura, l'avete sentito, la polizia faccia il suo lavoro, dice. Pensioni, l'INPS paga gli arretrati della rivalutazione sancita dalla sentenza della Corte Costituzionale. Ad agosto 800 euro in più di rimborso a chi ha l'assegno da 1.500 euro. La crisi che cambia la società, le italiane tornano a fare le colf e le badanti. E Olimpiadi 2024, primo sì alla candidatura di Roma. E partiamo quindi dalla riforma della scuola, la notizia che in Senato è passata la fiducia. Senatori presenti 273, maggioranza 136, senatori votanti 271, senatori favorevoli 159, contrari 112, senatori astenuti 0, il Senato approva. Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del disegno di legge. Alla fine Matteo Renzi ce l'ha fatta, il disegno di legge sulla scuola passa all'esame del Senato e torna alla Camera per l'approvazione definitiva, una seduta tormentata e scandita dalle proteste dell'opposizione, soprattutto durante l'intervento della senatrice PD Francesca Puglisi, con minacce del presidente Piero Grasso di sospendere la seduta, ma al termine il provvedimento ottiene il sì dell'Aula di Palazzo Madama, così Grasso. Senatori favorevoli 159, contrari 112, senatori astenuti 0, il Senato approva. Restano pertanto preclusi. Soddisfatta il ministro dell'istruzione Stefania Giannini. Una giornata molto intensa, una dialettica molto forte, ma come è giusto che sia per un provvedimento importante, direi cruciale per questa legislatura e per il futuro del Paese. Al voto però non partecipano i senatori dissidenti Dem come Corradino Mineo, Walter Tocci, Roberto Ruta e Felice Casson. La Lega espone in aula la vasellina per insegnanti e studenti, il gruppo di Selle indossa magliette bianche con su scritto libertà di insegnamento e diritto allo studio, il Movimento 5 Stelle in scena una sorta di funerale accendendo lumini votivi in memoria della scuola con lutto al braccio. Nel disegno di legge anche l'assunzione dei 100.000 precari per il prossimo anno e più poteri ai presidi, anche se ridimensionati. Il provvedimento è già calendarizzato alla Camera per il 7 luglio. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E parliamo adesso dell'atteso Consiglio europeo di oggi. Europa 24. Che anche anche il nostro spazio europeo di oggi con Sergio Nava. Ciao Sergio. Questo Consiglio europeo che era atteso per trovare una soluzione all'infinita vicenda della Grecia, mi pare che non ci sia oggi neanche nessuna notizia in particolare decisiva. No, non l'ha trovata perché la premessa che era l'Eurogruppo che si era aperto 3 ore prima del Consiglio europeo, cioè i ministri finanziari dell'Eurozona, non ha prodotto nulla. Evidentemente gli ultimi 2 giorni non sono bastati, i negoziati sono così ripresi a livello tecnico. A quanto pare ancora i nodi delle pensioni, ancora i nodi del fisco, dell'IVA, in particolare per sommi capi, perché poi se si va nei dettagli ci sono proposte, controproposte, eccetera, sembrano ancora abbastanza invalicabili. Una fonte italiana a Bruxelles diceva poco fa che più che i numeri c'è anche un po' la mancanza di fiducia adesso tra Grecia e creditori, cioè i creditori dicono ma noi i numeri possiamo avvicinarci, però poi non ci fidiamo fino in fondo che il governo greco adempia e soprattutto mette in moto le riforme. È diventato veramente un gioco anche difficile, se vogliamo comprendere, perché difficile in qualche modo c'è anche chi dice che gli stessi creditori in realtà poi cambiano continuamente gli obiettivi, non sono solo i greci diciamo a traccheggiare, a aspettare, ma anche i creditori sono abbastanza ambigui nel modo e non sempre uniti nel modo in cui pongono gli obiettivi alla Grecia. Però il problema è che il tempo ormai è agli sgoccioli. Sentiamo intanto cosa ha detto Renzi sulla Grecia oggi. Credo che la crisi greca sarà affrontata, risolta, se vuole una mia opinione, non all'interno di questo Consiglio europeo ma nelle prossime ore, ma credo che si debba fare tutti uno sforzo per mantenere la Grecia dentro la zona euro. Noi stiamo lavorando per questo, naturalmente come abbiamo sempre detto Atene deve fare la sua parte, se vuole una previsione non sarà all'interno di questo Consiglio europeo, come del resto non è all'ordine del giorno. E così è stato. Direi invece sulla questione immigrazione c'è stato qualche passo avanti oppure... Mentre sulla Grecia abbiamo un po' il quadro della situazione, sull'immigrazione che era il piatto forte della prima sessione di lavoro del tardo pomeriggio, abbiamo solo gli annunci all'arrivo, e cioè un Renzi che dice, lo sentiremo tra poco, insomma faremo sentire la nostra voce in Europa, e un Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, che invece sostanzialmente ammette che sulla obbligatorietà della ripartizione delle quote dei migranti in Europa, la riallocazione, quella proposta dalla Commissione europea, ebbene su questa obbligatorietà la Commissione europea inizialmente aveva detto le quote le decidiamo noi, poi si era detto facciamo in modo che siano gli stati a mettersi d'accordo ma mantenendo l'obbligatorietà, ebbene non c'è unione, non c'è accordo, ci sono comunque stati che non la vogliono. Lo stesso Tusk, devo dire, ha poi detto se poi la lasciamo volontaria mi sa che nessuno aderisce, poi alla fine si rischia veramente che non si combini nulla, e l'Europa di accordi su base volontaria che poi non sono mai stati adempiuti ne abbiamo a bizzeffe nella storia europea, quindi effettivamente se si parte con una base volontaria non si combinerà probabilmente granché. Grazie Sergio Nava. Grazie. Ciao Sergio. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus. E a proposito di immigrazione, Renzi oggi prima di partire per Bruxelles ne ha parlato con i presidenti delle regioni. La partita si è conclusa così come era iniziata. Il premier Matteo Renzi si è presentato al Consiglio europeo senza poter contare su una posizione univoca e compatta delle regioni italiane sul tema immigrazione. Ci vuole condivisione in Europa e più l'Italia si mostra compatta meglio è, aveva detto Renzi nell'incontro a Palazzo Chigi, ma nonostante l'appello le posizioni sono rimaste distanti. Da una parte i governatori di Lombardia, Veneto e Liguria compatti nelle critiche al governo. Un incontro inutile, ha detto il governatore della Lombardia Maroni, mentre quello del Veneto Zaia, prima di entrare, aveva auspicato che i prefetti si ribellino al Viminale. Il tema dei rimpatri è un vero tema, ne abbiamo parlato anche oggi, anche perché rimpatriare un immigrato oggi è pressoché impossibile. Dichiarazioni pregiudiziali le ha bollate il presidente della Conferenza delle Regioni Chiamparino, Deborah Serracchiani, governatrice del Friuli Venezia Giulia. I numeri in Italia sono tali per cui non possiamo neppure definirla fino in fondo un'emergenza. Mettere da parte la demagogia, mettere da parte i sondaggi. Unica voce critica nel PD il presidente dell'ANCI Piero Fassino. Lo Stato, ha detto il sindaco di Torino, mette a disposizione dei comuni le risorse per gestire l'accoglienza. La prossima partita fra 15 giorni. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi c'è il caso De Magistris, il sindaco di Napoli. De Magistris resta in carica, il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso contro la Severino, il caso quindi è congelato fino alla decisione della consulta che ci dovrebbe essere il 20 ottobre prossimo, ed è una sentenza che potrebbe avere ripercussioni anche sul caso del Presidente della Regione Campania De Luca, che sapete molto dibattuta questa vicenda. Dopo magari chiariremo con un costituzionalista. Adesso però parliamo del Consiglio Comunale di Roma, che oggi ha approvato la mozione sulla candidatura della capitale alle Olimpiadi 2024. È una sfida straordinaria, una sfida che inizia con il voto di oggi. Una città, Roma, la nostra capitale, che la saprà accogliere nella trasparenza, nella legalità. Trasparenza, onestà e legalità, questi gli ingredienti chiave, secondo Marino, che dovranno segnare il percorso di Roma verso le Olimpiadi del 2024. Il via ufficiale alla candidatura è stato dato oggi in Campidoglio con 39 voti favorevoli e 6 contrari, quelli del consigliere leghista del gruppo 5 Stelle. Tutti insieme vinceremo la sfida, aveva scritto Marino in una nota poco prima dell'inizio dell'assemblea capitolina, sfida raccolta anche dall'ex sindaco e consigliere di Roma Alemanno, che spiega così il suo voto favorevole. Perché qui non è in questione il sindaco Marino, non si tratta di fare un dispetto a Marino, si tratta di fare un regalo a Roma e a tutta l'Italia, al di là delle polemiche. Un voto, quello di oggi, che rafforza la determinazione di Marino ad andare avanti nonostante il clima attorno a lui sia sempre più teso. Ad aggravarlo anche l'arrivo ieri all'aeroporto di Fiumicino di una lettera contenente un proiettile e delle minacce nei suoi confronti. La busta è ora al vaglio della magistratura. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Per la politica, vi dicevo all'inizio, di Matteo Salvini, che ha attaccato il reato di tortura oggi. Il leader della Lega si è scagliato contro la legge introdotta dopo varie vicende, da Radiaz di Genova, il caso Cucchi, Aldrovandi. Idiozie come questa legge espongono i poliziotti al ricatto dei delinquenti, lo avete sentito all'inizio, proprio senza peli sulla lingua. E sulle sue dichiarazioni a proposito del reato di tortura, del fatto che se qualcuno si sbuccia il ginocchio sono cazzi suoi, la polizia deve fare il suo lavoro, vi invito quindi a mandare i vostri messaggi, le vostre riflessioni, che già stanno arrivando, al 349-238-6666 o sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Adesso però cambiamo argomento con le pensioni. L'INPS paga gli arretrati dalla rivalutazione sancita dalla sentenza della consulta che è stata recepita dal decreto del governo. Ci sono delle novità, ce le spiega Chicco Padula, vice direttore del Sole 24 Ore. Chicco. Sì, buonasera. La novità è che l'INPS ha predisposto una circolare interna che prevede che il 1 agosto, così come aveva peraltro stabilito il governo, procederà al rimborso di quelle pensioni che erano state, la cui rivalutazione era stata bloccata per il 2012 e il 2013. Come si ricorderà forse qualcuno, la Corte Costituzionale qualche settimana fa ha detto che quel blocco era illegittimo, cioè che le pensioni dovevano essere rivalutate al costo della vita. Quindi il primo agosto l'INPS procederà a restituire, sarà stato una tantum che grosso modo vale 800 euro circa per chi ha una pensione lorda di 1500 euro al mese. Poi insomma questo importo scende un pochino, e chi ha la pensione che supera i 3.000 euro lordi al mese non prenderà nulla, perché in quel caso non è prevista alcuna rivalutazione. Sono interessati, si dice, 3.700.000 pensionati, quindi insomma sono tanti pensionati, e il costo complessivo dell'operazione è di poco superiore ai 2 miliardi rispetto ai 17-18 che sarebbero stati necessari per, diciamo, ripristinare integralmente le regole bocciate dalla Corte Costituzionale. Grazie Chicco Padula. Grazie a te, ciao. Ciao Chicco. Poi invece, andando sempre relativamente all'INPS, l'INPS ha diffuso anche i dati sul numero dei collaboratori domestici in Italia. Non mancano delle sorprese, ma delle sorprese parleremo dopo con il sociologo De Masi. Per la cronaca, vi dicevo all'inizio che è tornata in Italia la piccola Sara Ammar, sequestrata dal padre egiziano nel 2010, e da allora scomparsa, poi ritrovata dopo molte ricerche, grazie alle battaglie della madre, adesso è tornata oggi in Italia. Prima di chiudere, di dare gli aggiornamenti per chi viaggia, volevo leggere qualche vostro messaggio al 349-238-6666. Gianluca dice bravo Salvini, Stefano scrive se si delinque si prendono le botte, ragione Salvini, Davide scrive legare troppo le mani alla polizia porta a promuovere la giustizia, fai da te, tanto se vale l'impunità vale per tutti. Daniele dice proprio per tutelare chi svolge il proprio dovere che dovremmo introdurre il reato di tortura e aggiunge il numero, e aggiungere il numero identificativo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo tra poco, intanto anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte i vostri interventi su quanto ha dichiarato Salvini a proposito del reato di tortura. Isabella dice la Lega è stata al potere per 20 anni in alternanza con la sinistroide che oggi è ancora al potere e vediamo cosa sta combinando. Allora vi ricordo prima di passare ai temi con gli ospiti le notizie più importanti. La riforma della scuola passa la fiducia al Senato, 159 sì, proteste in piazza, ora il provvedimento passa alla Camera. La crisi greca nulla di fatto, all'Eurogruppo l'avete sentito, al Consiglio europeo si parla di immigrazione ma non c'è il consenso. Napoli De Magistris resta in carica, il Tribunale accoglie il ricorso contro la Severino. Salvini contro il reato di tortura, dice la polizia, faccia il suo lavoro. Pensioni, l'INPS paga gli arretrati della rivalutazione sancita dalla sentenza della Corte Costituzionale. La crisi poi che cambia la società, le italiane tornano a fare le colfe e le badanti. Olimpiadi 2024, primo sì alla candidatura di Roma. E tanto per iniziare soffermiamoci sul caso De Magistris. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, rimane sindaco di Napoli, quindi niente sospensione dal suo ruolo perché è stato accolto il ricorso sulla Severino. Anche il tribunale ordinario, dopo il TAR, vi ricordate, qualche tempo fa, dà ragione al primo cittadino di Napoli, quindi De Magistris resta in carica almeno per ora perché si è in attesa della pronuncia poi della consulta della Corte Costituzionale che avverrà il prossimo 20 ottobre. Sul merito deve discutere la consulta che stabilirà insomma i corretti confini costituzionali della tanto dibattuta legge Severino. Legge Severino che quindi in questo caso è stata di nuovo ristoppata dal Tribunale Ordinario dopo le pronunce nei mesi scorsi del TAR e del Consiglio di Stato. La reazione di De Magistris è stata contro di me tanti trabocchetti, cercano di fottermi, così ha detto, e fra l'altro la cosa particolare è che questa decisione del Tribunale di Napoli sulla legge Severino potrà probabilmente avere delle ripercussioni anche sul caso De Luca, un altro caso molto caldo. Chiedo lumi al professor Stefano Ceccanti, docente di diritto pubblico comparato all'Università La Sapienza di Roma. Professore, buonasera. Buonasera. Quindi effettivamente può essere un precedente questo di De Magistris per il caso adesso molto attuale del governatore della Campania De Luca? Guardi, è il secondo precedente. Questo è importante perché capita a Napoli. Quindi lo stesso tribunale che dovrebbe valutare su De Luca, ma c'era stato già un precedente di un altro giudice ordinario in Puglia, la Corte d'Appello di Puglia, che anch'essa aveva sospeso una sospensione e mandato agli atti la Corte Costituzionale. Quindi mi sembra una strada ormai consolidata, e quindi quando lunedì De Luca sarà sospeso da Renzi, qualche giorno dopo la sospensione sarà sospesa, quindi momentaneamente annullata dal Tribunale di Napoli. Quindi non sono due casi diversi, sono tutti e due per abuso d'ufficio se non sbaglio, però uno forse era precedente la legge Severino, l'altro successivo o invece no? Non è tanto questo, il punto fondamentale è che De Magistris è stato sospeso quando già era sindaco. Qui invece la vicenda è un pochino più aggrovigliata perché De Luca prima deve essere insediato e poi deve essere sospeso. Mm-hmm. Però a parte questo dettaglio, per il resto siamo nello stesso schema. Quindi insomma Vincenzo De Luca, il presidente della Regione Campania, può sperare in questa sentenza che lo ha preceduto, che riguarda De Magistris, che avverrà più o meno la stessa cosa per lui. Quindi a questo punto bisogna aspettare per tutte e due poi la Corte Costituzionale? Sì, metà ottobre. È già calendarizzato il caso per metà ottobre. Quello che varrà nel caso in cui la Corte Costituzionale ritenga incostituzionale la questione, la cosa è risolta. Se invece la Corte Costituzionale dovesse che la legge è costituzionale, i due dovrebbero essere sospesi per 18 mesi. E quindi... poi governerebbe al loro posto il vice sindaco nel caso di De Magistris, il vicepresidente della regione nel caso di De Luca, e dopo 18 mesi tornerebbero a governare. Quindi per il momento la situazione è questa, l'attesa è per a metà ottobre per la decisione della Corte Costituzionale. Sì, giusto? Esattamente. Grazie professor Ceccanti, molto chiaro. Prego, buonasera. Grazie, buona serata. Presidente, a nome del governo autorizzata dal Consiglio dei Ministri pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento che mi accingo a presentare al disegno di legge numero 1934. Sospendo la seduta e convoco immediatamente la conferenza dei capigruppo. Quindi avete sentito, via libera dell'Aula del Senato alla fiducia sul disegno di legge della buona scuola. I voti favorevoli sono stati 159, quelli contrari 112. Adesso il provvedimento deve passare alla Camera. Il commento della Ministra dell'Istruzione Giannini è stato: oggi è una giornata molto importante per il nostro governo e per il Paese. Quello al Senato è un passaggio fondamentale, il disegno di legge è stato approvato con ampi numeri. Questa legge prevede il rilancio, dice Giannini, del nostro sistema di istruzione attraverso un cambiamento culturale che mette al centro di questi principi autonomia, trasparenza, responsabilità, valutazione e merito. Se c'è tutto questo, senatrice Michela Montevecchi, buonasera intanto. Buonasera. Del Movimento 5 Stelle. Se c'è tutto questo, perché voi protestate? Avete portato i lumini dei cimiteri in aula oggi? Perché in realtà tutto questo non c'è. Innanzitutto c'è una valutazione che non si capisce bene base a quali criteri sarà attuata, e comunque i docenti per essere valutati dovrebbero essere messi nella posizione di poter svolgere al meglio la propria funzione sociale prima di parlare di valutazione. Tra l'altro il governo parla di valutazione tanto in termini punitivi, non migliorativi, quindi questo hanno mistificato la realtà dicendo che i docenti non vogliono essere valutati, che il mondo della scuola non vuole essere valutato, quindi c'era bisogno di questa riforma che introducesse la valutazione. In realtà è una valutazione farlocca, perché è una valutazione che in buona sostanza sta in mano al dirigente scolastico e ad un comitato che adesso è stato ampliato con la presenza di tre insegnanti, ma non si capisce bene, insegnanti dell'istituto più uno esterno. Già i due dell'istituto non si capisce bene come potranno valutare un proprio collega se poi voglio dire, si instaureranno nella scuola determinate dinamiche per cui alcuni docenti, che saranno docenti di serie B, vedranno rinnovato il proprio contratto ogni tre anni, quindi saranno ricattabili, quindi con tutte le dinamiche che noi sappiamo umane che si innescano quando si lavora su tuo ricatto. Ecco, quindi noi contestiamo questo dirigente scolastico con i superpoteri, cioè il superpreside, il superpreside. Contestiamo l'entrata massiccia dei privati nella scuola senza dei correttivi perequativi, perché quel 10% che hanno messo di quota dei finanziamenti privati, che dovrebbe essere poi messa in questo fondo presso il MIUR, anche lì poi ci chiediamo come possa funzionare, e comunque non libera la scuola anche qui da dinamiche del tipo famiglia ricca, studenti di serie A, perché la famiglia ricca finanzia la scuola, quindi probabilmente questo studente riceverà un trattamento diverso. Da però hanno detto che ci saranno dei fondi, senatrice Montevecchi, però hanno detto che ci saranno dei fondi anche per le scuole con famiglie meno abbienti. No, in realtà è prevista una quota del 10% che dovrebbe finire in un fondo presso il MIUR, che dovrebbe poi essere ridistribuito tra le scuole che non hanno percepito i finanziamenti entro una determinata media nazionale. Cioè una cosa, guardi, veramente molto, molto cervellotica, e io non sono sicura che funzionerà. Senatrice Montevecchi, le faccio sentire, un pezzetto della chiacchierata fatta una di queste sere, due sere fa, con una dei relatori del maxi emendamento sul disegno di legge della scuola, che è la senatrice del PD Francesca Puglisi. A proposito delle assunzioni, si parlava in questa riforma di 100.000 assunzioni più quelle relative al concorso 2012. Sentiamo questo passaggio. Nel 2012 c'è stato un concorso indetto dall'allora ministro Profumo, resta l'ultima tranche dei vincitori da assumere in ruolo. I primi assunti, diciamo i 48.000 che entreranno in ruolo all'apertura dell'anno scolastico, saranno proprio secondo il principio del 50-50, 50% vincitori e idonei del concorso 2012 e il restante 50% coloro che stanno nelle graduatorie ad esaurimento. Immediatamente dopo entreranno in classe, quindi non è vero che ne assumeremo solo 48.000, ma assumeremo tutti 100.000 nel prossimo anno scolastico, saranno quelli che potenzieranno l'offerta formativa delle scuole, quindi andremo finalmente ad esaurire le graduatorie ad esaurimento. Questo è il meccanismo. Gli idonei entreranno prima semplicemente per un meccanismo di scorrimento dei primi assunti, ma nulla toglie agli insegnanti delle graduatorie ad esaurimento che comunque entreranno in ruolo già il prossimo anno. Che ne dice, senatrice Montevecchi, a proposito delle assunzioni? Evidentemente era in un luogo poco coperto, come si dice, la senatrice Montevecchi. Vediamo se riusciamo a recuperarla, giusto per capire che cosa pensa anche di questo piano di assunzioni, che doveva essere uno dei punti forti del disegno di legge sulla buona scuola. Diciamo che proteste ci sono state anche in piazza oggi da parte di insegnanti, molti insegnanti che non condividono alcuni punti di questa riforma, e tra le opposizioni sicuramente il Movimento 5 Stelle è quello più duro. Avete sentito la senatrice Montevecchi a proposito dei finanziamenti alle scuole, anche a proposito delle scuole private, ma pronto? Eccomi, scusi, era caduta la linea. Ecco, pronto? Rimanga immobile, senatrice, così riusciamo a capire quello che dice. Rimango immobile. Stavo dicendo che La senatrice Puglisi svela il bluff del governo e lo svela anche in modo così incauto, ingenuo. In che senso? Dicendo chiaramente che per l'anno scolastico 2015-2016 loro non fanno le 100.000 assunzioni, fanno le 48.000 assunzioni, che sono turnover, posti del sostegno che erano già previsti dal decreto carrozza. Quindi voglio dire che in realtà, siccome loro hanno usato il ricatto delle assunzioni per far passare tutto il resto della riforma, che è avvelenata, perché al di là di quello di cui si parla sempre, in questa riforma ci sono anche delle deleghe in bianco, cioè praticamente dei permessi, no, che il governo dà e che il Parlamento dà al governo di legiferare liberamente su temi importantissimi come quello della disabilità e il sostegno, la riforma del testo che regola la scuola, signori, la riforma del testo che regola la scuola e tutta la regolamentazione del comparto che va da 0 a 6 anni, quindi inizia la scuola dell'infanzia. Senatrice Montevecchi, adesso chiaramente non saranno 100.000 e parte di queste assunzioni sono assunzioni che hanno carattere giuridico. Quindi è come dire, guarda, io ti assumo, però non ti faccio lavorare. Presumibilmente tu inizierai a lavorare, a percepire uno stipendio, se ti va bene, dall'anno scolastico 2016-2017. Ma non è detto. Quindi quando la senatrice Puglisi diceva che non si poteva separare le assunzioni da tutto il resto della riforma perché erano strettamente connesse, diceva un'enorme balla e lei stessa l'ha smentita, perché tutto l'organico del potenziamento, quello strettamente legato alla riforma, in questo anno scolastico non viene assunto di fatto. Senatrice Montevecchi, vediamo se col passaggio alla Camera si chiariscono meglio alcuni punti. Avremo modo di risentirci allora. Intanto la ringrazio e la saluto. Grazie. Ringrazio a voi, grazie. Buona serata. Ancora qualche vostro messaggio al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Note. Piero da Salerno dice: bisogna definire il reato di tortura, per me anche Equitalia ci tortura economicamente e psicologicamente. Salvatore da Genova: c'è polizia e polizia, non dimenticate il G8 di Genova, che la polizia ha massacrato la gente, soprattutto anche persone che non facevano nulla. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di nuovo i vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Roberta Giordano ancora con voi, e stavo guardando ancora i messaggi a proposito delle dichiarazioni del segretario della Lega Salvini sul reato di tortura. Lui si dice contrario, dice la polizia deve fare il proprio lavoro, se uno poi si sbuccia il ginocchio fatti suoi, l'ha detto in un altro modo, ma insomma il senso è questo. Dice un ascoltatore: poverino, anche ad Aldrovandi si è sbucciato il ginocchio ed è morto. Sergio da Milano: Salvini avanti tutta, bravo, con lui in tutto, lavoro nel pubblico, certi delinquenti si vantano di tenere sotto scacco la polizia. Poi un altro ascoltatore scrive, al 349-238-6666, scrivete anche il nome, magari inventato, anche d'arte: Salvini sbaglia, cosa direbbe se durante un interrogatorio di boss indagato per appropriazione indebita e truffa allo Stato per circa 40 milioni di euro ci raccontassero che è caduto dalla sedia e sbattendo la testa a terra fosse morto, cazzi suoi, dice questo ascoltatore. Intanto, se avete acceso la radio in questo momento invece di accenderla puntualmente alle 21, vi ricordo comunque le notizie più importanti. È passata al Senato la fiducia sulla riforma della scuola con 159 sì, proteste in piazza, ora il provvedimento passa alla Camera. A proposito di Grecia, il Consiglio europeo nulla di fatto, si è parlato anche di immigrazione, per ora non c'è un consenso intorno alle quote. A Napoli il sindaco De Magistris resta in carica perché il Tribunale accoglie il ricorso contro la Severino. Salvini contro il reato di tortura, la polizia dice faccia il suo lavoro. Per quanto riguarda le pensioni, l'INPS paga gli arretrati della rivalutazione sancita dalla sentenza della Consulta, ad agosto 800 euro in più di rimborso a chi ha l'assegno da 1500 euro. E poi la crisi che fa cambiare anche le esigenze e i mestieri per la società italiana, le italiane tornano a fare le colf e le badanti. E poi Olimpiadi 2024, c'è il primo sì alla candidatura di Roma. Ora vorrei ci occupassimo di una storia molto particolare, una storia dolorosa che però sembra aver avuto un lieto fine. La vicenda di una bambina italiana, Sara Ammar, sequestrata dal padre cittadino egiziano nel gennaio del 2010, portata in Egitto e da allora era stata irreperibile, sino alla conclusione di oggi che è stata annunciata dal ministro degli esteri Paolo Gentiloni, che ha detto la piccola Sara Ammar e sua madre, assistite dall'ambasciatore d'Italia, sono finalmente arrivate questa mattina in Italia. La bambina oggi ha 9 anni, tra l'altro il suo rientra in non pochi casi che riguardano in Italia coppie miste, diciamo, con un genitore italiano e un altro di una nazionalità estera, che effettivamente a un certo punto magari si separano, divorziano, non vanno d'accordo, uno dei due genitori rapisce letteralmente il figlio. Comunque, tornando alla vicenda di Sara, la mamma della bambina, Sara Fardella, ha portato avanti per diversi anni, se contate che dal 2010 la sua battaglia tra mille difficoltà, la bambina era sparita nel nulla, aveva sentito il padre in una telefonata confusa da cui era separata, che dice dall'aeroporto di Malpensa nel 2010, il 9 gennaio, aveva detto ora guarda cosa ti combino, dopodiché il silenzio, non aveva più sentito la sua bambina, si era addirittura avventurata in Egitto, era andata al Cairo senza protezioni, senza informazioni, non riuscendo naturalmente a trovare Sara. Poi qualche mese fa l'interessamento del ministro degli esteri Gentiloni fino alla conclusione di oggi. Ne parliamo con Cristina Ravaglia, ambasciatrice e direttrice generale della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le politiche migratorie. Ambasciatrice, buonasera. Buonasera. Quindi si è conclusa bene questa storia. Siamo molto contenti, devo dire, perché la vicenda di Sara Ammar ci ha accompagnato noi qui al Ministero e i colleghi che in questi anni si sono succeduti all'ambasciata al Cairo, quotidianamente devo dire. Sara Ammar è una bambina italo-egiziana in realtà, la doppia cittadinanza, che la magistratura egiziana, questo è un dato molto importante che credo valga la pena di tenere presente, per ben 2 volte aveva riconsegnato, della quale la magistratura egiziana per ben 2 volte nel 2010-12 aveva ordinato la riconsegna alla madre. Quindi questo ci tengo a sottolineare, perché abbiamo in questi anni agito in perfetta coerenza con la magistratura egiziana. E in questi 5 anni gli interventi a favore di Sara sono stati numerosissimi. Quella che noi chiamiamo in gergo abbastanza tecnico le azioni di sensibilizzazione, interventi a tutti i livelli da parte di tutti i governi che si sono succeduti in questi anni, di tutti i ministri degli esteri, di tutti veramente. Nel caso di Sara, che siamo felici, veramente felici di aver visto oggi rientrare in Italia con la madre, come spessissimo in casi analoghi, il problema è stato ritrovarla. Il problema è stato ritrovarla perché noi evidentemente non abbiamo la bacchetta magica, perché Sara, come i bambini nelle sue condizioni, sono in territori stranieri, territori nei quali, per quanto esista e operi meravigliosamente bene una collaborazione tra la nostra polizia, tra la nostra Interpol e le altre polizie, ovviamente non possiamo agire in prima persona. Ecco, l'abbiamo ritrovata ed è ritornata da sua madre dopo 5 anni. Sarà un'opera molto complicata quella che aspetta, già, che attende anche la madre. Pensiamo, perché sono 5 anni, la bambina è cresciuta, 9 anni oggi. La bambina, quindi, era una bimbetta di 4 anni, ora ne ha 9, e quindi così sarà un riadattamento lento, forse complesso, ma insomma ne siamo molto felici. Senta, ambasciatrice Ravaglia, ma la dimensione del fenomeno in Italia... com'è? Perché non è un unico caso, no? No, la dimensione purtroppo del fenomeno è piuttosto importante. Nel 2014 abbiamo più di 400 casi pendenti eseguiti dalla Farnesina. Quando dico la Farnesina dico qui dal Ministero degli Esteri e dalle nostre sedi che sono all'estero, nei posti dove appunto questi bambini poi vengono portati. Quindi 400 casi pendenti da risolvere, sì, quindi. Sì, 400 casi pendenti, è un fenomeno enorme, è un fenomeno che riguarda due tipi di coppie, e questo è importante credo dirlo, sia coppie miste naturalmente, quindi in cui uno dei due genitori è italiano, sia coppie anche italo-italiane, in cui la fuga di uno dei genitori avvenga e abbia destinazione estera, e quindi noi in quel caso operiamo tramite le nostre sedi. Ambasciatrice, sono più in percentuale gli uomini o le donne che rapiscono i figli e li portano via? È difficile, non abbiamo fatto percentuali, ma io ritengo che possano essere più o meno uguali, insomma, uomini. Senta, nel caso un genitore, uomo o donna, si trovasse nella stessa situazione della mamma di Sara, almeno fino ad oggi, come ci si deve comportare? Quindi? Ma ci si deve comportare, allora, in primo luogo bisogna avere un avvocato locale, che agisca in stretto collegamento con l'avvocato italiano e che segua le diverse fasi giudiziarie che dobbiamo ricordare sono diversissime in Europa o fuori da Europa. Il Ministero poi segue da Roma e quindi ovviamente poi di questo viene informata la nostra sede estera, viene informato questo Ministero e noi seguiamo da Roma insieme alla sede coinvolta e facciamo queste azioni di sensibilizzazione, proprio come è avvenuto nel caso di Sara, in ogni occasione utile, secondo le circostanze, eccetera. E poi la cosa importante, questo voglio dirlo, è che sul sito www.esteri.it è pubblicata la guida Bambini Contesi, guida di orientamento. Quindi questo è la primo orientamento che un genitore che si venga a trovare in una situazione del genere può avere. Questo è molto utile purtroppo, quindi poi lo ripetiamo, www.esteri.it. Esattamente, e poi in molti casi, ricordiamo anche, molti casi vengono seguiti, noi li seguiamo insieme al Ministero dell'Interno e al Ministero della Giustizia, ciascuno per la parte di competenza, nell'ambito di un gruppo di lavoro che si riunisce alla Farnesina e che opera in strettissimo contatto che voglio ripetere perché è fondamentale, è un contatto per quanto riguarda l'Interpol, la collaborazione di polizia, è un contatto veramente anche sul territorio attraverso le polizie locali. Cristina Ravaglia, io la ringrazio e auguriamo che la bimba, che Sara, si riprenda velocemente, insomma, si sì, adatti. Certo. Visto che... certo, lo speriamo tutti, davvero, grazie. Grazie, buona continuazione, buon lavoro, grazie. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Riprendiamo allora anche con i vostri messaggi, tra la pagina Facebook di Effetto Notte, gli sms al 349-238-6666 a proposito delle dichiarazioni di Salvini. Qualcuno titola: Salvini shock sulla tortura, no al reato, polizia deve poter fare il suo lavoro. Avete sentito comunque alcune delle dichiarazioni che ho fatto sentire all'inizio di Effetto Notte. Scrive questo ascoltatore Roberto da Torino: credo che non sia giusto inserire il reato di tortura, bisogna avere fiducia nelle forze dell'ordine, dargli l'opportunità di lavorare in modo sereno nel nostro paese. 22 regioni su 5, c'è da essere un sbaglio in questo calcolo, intanto le regioni sono 20, sono colpite dalla mafia, le più potenti al mondo. Mettere il numero identificativo sopra l'uniforme poi permetterebbe ai criminali infiltrati nel corso delle manifestazioni pacifiche di creare problemi e male gratuito. Gianni invece sulla scuola dice: ma scusate, l'Europa non ci aveva imposto di assumere tutti i docenti precari, allora non capisco questi ricatti di Renzi. Intanto, prima di passare al prossimo tema, vi ricordo le notizie principali. Naturalmente, visto che parlavamo di scuola, la riforma della scuola, avete sentito che è passata la fiducia in Senato, 159 sì, protesta in piazza, Lumini è morto nella protesta del Movimento 5 Stelle, ora il provvedimento comunque deve passare alla Camera. Per la crisi greca nulla di fatto all'Eurogruppo, al Consiglio europeo si parla di immigrazione, anche se non c'è per il momento accordo sulle quote. Napoli, il sindaco Luigi De Magistris resta in carica poiché il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso contro la legge Severino. Salvini contro il reato di tortura, ha detto la polizia, faccia il suo lavoro. Per le pensioni l'INPS paga gli arretrati della rivalutazione sancita dalla sentenza della Corte Costituzionale. E poi in Italia, dopo 5 anni, torna Sara Amarra, la bimba che nel 2010 fu rapita dal padre egiziano. Olimpiadi 2024, c'è stato il primo sì alla candidatura di Roma. Adesso parliamo di un fenomeno particolare che riguarda i collaboratori domestici in Italia, che in realtà riguarda l'Italia tutta, visto che è un fenomeno, un cambiamento sociale non da poco. Secondo un'indagine dell'INPS, la crisi economica ha ridotto la richiesta di servizi domestici da parte delle famiglie, ma non del lavoro di cura per gli anziani. Quindi sono diminuiti i colf, le colf, ma non i badanti. Nello scorso anno sono spariti 54.940 collaboratori domestici, come attesta il calo del 5,8% dei contributi versati nel 2014, ma a sorpresa, in assoluta controtendenza, c'è il dato complessivo che cresce del 4,3% del numero dei collaboratori domestici italiani. Quindi, in sintesi, è diminuita la richiesta di colf, aumentano le collaboratrici domestiche italiane, soprattutto le donne, anche gli uomini, soprattutto le donne, e tornano anche a fare le badanti, la richiesta di badanti questa è diminuita in realtà poco. Ne parliamo con il professor Domenico De Masi, notissimo sociologo, nonché professore emerito di sociologia del lavoro all'Università La Sapienza di Roma. Professore, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Quindi assistiamo a un ennesimo cambiamento dovuto alla crisi, professor De Masi, nel senso che se si può fare a meno del collaboratore domestico, uno fa una spazzata in più, decide di fare i lavori domestici in casa, alle badanti, e ai badanti non si può rinunciare. La crisi non fa che mettere in evidenza un fenomeno che comunque sarebbe avvenuto, cioè noi grazie alle tecnologie, grazie alla semplificazione di alcuni lavori, praticamente stiamo abolendo tutti i lavori di mezzo, diciamo quelli che non sono né fortemente funzionali al rapporto personale, come quello per esempio della badante appunto, né quelli di altissimo livello come quello dello scienziato o dell'artista. Vanno via le funzioni di mezzo e aumentano quelle che richiedono o forte affettività o forte scientificità o artisticità, cioè forti competenze. Quindi questo è un rapporto che comunque fino al 2030 almeno continuerà, con anzi un'accelerazione. Noi perderemo migliaia e migliaia di posti di lavoro che possono essere poi assorbiti dalle macchine. È un po' quello che è avvenuto anni fa con il Bancomat, che ha sostituisce i cassieri, oppure con il telepass che sostituisce, che riscuotono i pedaggi alle autostrade. Sono tutti lavori ripetitivi che ormai le macchine fanno meglio degli uomini. Professore, diceva addirittura fino al 2030 questo fenomeno. Sì, perlomeno ancora per 15 anni. Sì, ma noi perderemo tantissimi posti di lavoro esecutivi, praticamente i posti di lavoro non perdibili a causa della tecnologia sono i posti creativi, sia di carattere artistico, sia di carattere scientifico, sia di carattere manageriale. Tutti gli altri saranno sempre più assorbiti da macchine intelligenti. È come se le macchine, quando erano martello, quando erano pialla, avessero, diciamo, la prima elementare o la quinta elementare, poi sono andati alle scuole medie, poi all'università, e oggi con l'informatica praticamente sono macchine intelligenti che sostituiscono anche il lavoro intelligente. Però si notava, professore, da questa indagine dell'INPS, che è vero che sono diminuita la richiesta di colf, ma allo stesso tempo aumentano le persone italiane che fanno poi questo mestiere, sempre legato naturalmente alla crisi, no? Quindi si riciclano in questo tipo di cui parlava già Pareto, cioè man mano che diventano indispensabili le ore di lavoro che ci occorrono per sopravvivere, le si prende dove stanno, quindi abbiamo meno induzione a delegare ad altri lavori che possiamo fare noi, ma che non facciamo perché riteniamo poco gradevoli o poco remunerati. È l'utilità marginale di cui già parlava Pareto, si assorbono sempre più quei tipi di quegli spazi di lavoro che sono indispensabili per sopravvivere. Professore, ma quindi quell'utopia che si aveva un po' di anni fa di lavorare tutti, lavorare meno, avere più tempo libero, che il progresso ci avrebbe dato più tempo libero, meno ore di lavoro, mi pare che si sia invece smentito completamente. L'utopia non è mai stata così vicina a realizzarsi. Ah. Cioè noi abbiamo sempre meno tempo dedicato al lavoro e produciamo sempre di più. Noi produciamo almeno 15 volte più dell'inizio del Novecento, lavorando molti milioni di ore in meno rispetto agli inizi del Novecento. È quello che gli americani chiamano jobless growth, cioè sviluppo senza lavoro, capacità di produrre più beni e più servizi con meno lavoro umano. Quindi si è realizzata in realtà, professor De Masi? Ma se noi non ridistribuiamo il lavoro, è chiaro che avremo la situazione attuale aggravata, cioè i genitori che lavorano 10 ore al giorno e i figli completamente disoccupati. Se ridistribuiamo il lavoro in modo intelligente, lavoriamo tutti molto di meno, abbiamo più tempo libero, più equilibrio nella nostra vita sia individuale che affettiva, più cultura e quindi una società migliore. Mi pare un bello auspicio. Grazie professor Domenico De Masi. Grazie a voi, arrivederci. Grazie professore. E adesso ancora un po' di spazio per i vostri messaggi prima di chiudere, poi ci aggiorniamo naturalmente alle 22. Imerio sulla pagina Facebook di Effetto Notte scrive: dovrebbe prima distinguere, a proposito delle dichiarazioni di Salvini sul reato di tortura, dovrebbe prima distinguere bene cosa intende per delinquenti e cosa li distingue dai manifestanti. Non vorrei che alla prossima manifestazione degli insegnanti ... Vittorio: oggi a Roma ha manifestato davanti a Montecitorio la polizia provinciale che si occupa di contrasto agli inquinamenti e al bracconaggio, e questa è una cosa diversa, per non parlare della tutela della flora, della fauna, rischiamo di scomparire. Chi eserciterà quelle funzioni? Ma magari vedremo se ci sarà possibilità di parlare anche di questo tema. Gilles scrive: giusto che esistano forze dell'ordine con possibilità di fare qualcosa e non impotenti come oggigiorno, ma la Lega non è stata al potere per 20 anni insieme ai fascisti, ai forza mafia, insomma varie posizioni. Diciamo la tortura come giustizia, scrive Roberto. Salvini vuole tornare al Medioevo, si candidi come inquisitore. Ci sentiamo dopo.